dei papieri, mi dice la polizia del suo contratto. Thank you. prima per dirsi. Ero maggio io. Quando si è stato niente se la abbia in culo. Però a mangiare maggio io non devo solo dire tutto quanto il giorno, ma no? Fate di gonfia. E provate a fare tutto l'ordine. Se la prima parola di niente oggi non ci va bene, non lo mai. 747 che è una meraviglia come applicatore. Va bene, dai, ricontinuate. E io qua sono sistemato un po' di roba, sono aiutato la mamma, quindi adesso non siete da capire e riprendo. Continuate, bravo. Yeah. guardato poco fa, ma c'è dopo che è stata la televisione, stavo guardando le televisioni del tempo che c'era, in un giorno solo fatto cose di freddo, il freddo non fatto, il caldo sarà all'altra ieri. Noi siamo 20 gradi in Sardegna, 3 ore, fino a mercoledì, poi giovedì di nuovo la neve, cioè il freddo di neve, e tu si ricompensa un bel tempo, no? Per fare il caffè e ti bevi il caffè passato per pazzi. Se tu ti metto